noia, è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, all'inglese, con doppio turno, alla francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Che bello, alla Leopolda si parlava di tutto, si poteva dire tutto, tutto, tutto, tranne la parola sinistra. Per dire che il bagno era in fondo a sinistra, era obbligata a dire vai in fondo, gira a destra e poi cammina all'indietro. Questo è Crozza, la lettura della Leopolda per Maurizio Crozza. Non si poteva dire non si poteva dire quella parolaccia lì alla Leopolda. Allora, questa è 24 mattino, sono le 6:30 minuti. Oggi siamo arrivati, i computer non andavano. Faccio un appello pubblico. No, Carmelo Lauricella in regia mi dice: il mio computer va. Quindi. Però Lorenzo Nespoli, che saluto, dice. Non mi faceva salvare i file. Faccio un appello pubblico ai responsabili dei PC di Radio 24. Oggi state dormendo in questo momento, ma non si potevano salvare i file audio, il che è un piccolo problema, ma lo risolveremo. Poi Lorenzo, consolati, perché oggi c'è una pagina intera sul Fatto Quotidiano dedicata a uomini e donne, il tuo programma preferito, e quindi tu sai già in quale classifica è finita questa pagina, con largo anticipo e grandissimo distacco sul secondo e terzo e quarto posto, ma tu potrai godere di questa lettura, visto che è il tuo programma preferito. Alle 6:31 minuti, questa è 24 mattino, vogliamo aprire il Parlamento? Che siamo nel pieno. Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Nel pieno della 78esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E oggi c'è D'Alema che fa un'intervista al Sole 24 Ore e dice che la legge elettorale è un pasticcio e quindi va cambiata, non lo so, però c'è sempre la 78esima, 79esima, 80esima settimana decisiva, noi siamo sempre qui. Intanto voglio salutare una donna che saluto così. Questo mercoledì alle 6:33 una nuova puntata di Evviva le Rosse con Alessandro Milan e Paola Saluzzi e qualche altro ospite di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Ma non è vero, ma che Dio mi benedica. L'abbiamo rimessa, Paola Saluzzi, Evviva le Rosse. Buongiorno. Anche il mio computer l'altro giorno non funzionava. È arrivato un genietto di 20 anni, sì? Quello che io chiamo il genio della lampada di Sky, in 2 nanosecondi ha messo a posto tutto. Certo, infatti. Quindi ve lo presto subito. Alle 5:30 del mattino, come puoi capire, i genietti di Radio 24 dormono. Ma vogliamo stendere il tappeto rosso invece per l'altro ospite? Sì. Prima dell'altro ospite, io vorrei creare un'empatia, una vicinanza con i nostri ascoltatori, un sentirli più partecipi di questa trasmissione, quindi vorremmo sapere cosa stai facendo, come sei vestita, dove sei. Allora, attualmente sono nel luogo che amo di più, vale a dire seduta per terra, in un angolo della mia cucina che amo molto, perché io da vera, diciamo, gattara sto seduta per terra come i gatti, sono con la mia gattina Caterina accanto, che sta giocando con una parte della cintura della mia lunga vestaglia di seta. Allora, per creare la stessa empatia, vicinanza, non chiederò a Luca Dini come è vestito, che però saluto con grande affetto il direttore di Vanity Fair, Luca Dini, eccoci qua, va bene, lunga come se ne può fregare di meno. Ma neanche di me, cioè, insomma, questa qui che ha mandato vuole solo sentire Paola Saluzzi, potremmo mettere un robot a condurre, ma senti, com'è la vestaglia lunga di seta? Di seta. vita. Ebbene sì, ragazzi, voi mi immaginate questo fare veramente da alpino, saluto Calvello Lauricella e ovviamente il nostro Peter Bescapè, ovunque egli sia, specie se sta dormendo. Ma anche Carmelo è alpino, qua solo. Anche Carmelo è alpino, ma è fantastico. No, ma non è uno scherzo, cioè solo alpini mettiamo in regista. Ma avete gli alpini, cioè avete uomini veri sì, d'Italia. Sì, sì, sì. E allora, la passione è quella per le lunghe camicie, anzi, come posso dirti, vestaglia da camera la chiamerebbe qualcuno, sì, non lo so. Di seta. Sai, proprio quelle quelle da film. Quelle sì, di seta. Quelle non è che c'è molto, molto più da dire. Quelle di seta, Luca, Nini. Quelle di seta, no? Il colore non osavo, vedi, color panna. Ciao Passù, come si direbbe a Milano. Va bene. Allora, poi parliamo magari anche della questione Stato-mafia, eccetera. Ieri io ho riassunto le tre ore di testimonianza di Napolitano così. Lei era a conoscenza di trattative Stato-mafia? No. Ecco a voi la testimonianza di Giorgio Napolitano, insomma abbiamo un riassunto abbastanza conciso ma abbastanza preciso di quello che è successo. Ma vorrei partire dal Papa, mi ha incuriosito questa cosa, perché c'è oggi su tutti i giornali la questione, il dibattito sul Papa che ha scherzato su se stesso a dire io non sono un comunista, anche se mi dipingono un po' così come il comunista, però è l'uomo più, visto che non si può dire quella parola lì, Paola Saluzzi, neanche alla Leopolda, è l'uomo più di sinistra, più di sinistra in questo momento che c'è. Allora è un uomo attorniato da molti uomini sinistri, uh-huh, che sicuramente dimostra di essere assolutamente a sinistra, se vogliamo indicare quei valori per sinistra. In realtà è l'uomo dei valori universali, insomma, è l'uomo che ieri scherzando ha fatto benissimo a dire quello che ha detto, perché sì, ottimo, se questo vuol dire essere, cosa ha detto, marxista? Non so, vuoi dirlo tu, tanto non abbiamo il file, non abbiamo potuto salvarlo. Se vuoi fare anche la voce del Papa e dirci che cosa ha detto. No, non arrivo a tanto, potresti. Non arrivo a tanto. Quest'uomo, siccome si spinge ogni giorno di più all'interno di ciò che noi speriamo che lui dica e ci spieghi, e lo fa puntualmente, non per un potere salvifico, semplicemente perché ci è andata benissimo, perché è arrivato il Papa più Papa di tutti i Papa che potessimo sperare di avere come Papa, e sì, ha detto, mi dicono che sono marxista addirittura, ma probabilmente semplicemente porto avanti i valori che sono appunto valori universali. No, perché poi stare dalla parte, come dire, se si vuole, anche degli ultimi della terra, dei diritti per tutti, dei deboli, come dice lui, amo i deboli, che cosa dovrebbe fare il Papa se non amare i deboli? Voglio dire, dovrebbe essere una cosa anche abbastanza normale. Forse il primo marxista della storia è stato Gesù Cristo, vuoi vedere? Ma insomma, non lo so, forse la lettura è un po' troppo complessa. Sicuramente è attorniato da tipi sinistri, perché insomma, se ci sono state aperture straordinarie nell'ultimo sinodo, devo dire che altre sono state delle chiusure tanto attese quanto sinistre. Ma quello poi si sa che il sinodo in realtà tra un anno sarà il vero sinodo, no? Mi hanno spiegato che ci sarà un dibattito. Ah beh, certo. Però Luca Dini, no? Perché io lo leggo questo dibattito sui giornali dicendo io semplicemente voglio dare la voce a coloro che non vengono ascoltati, e subito i commenti: malumori nella Chiesa Romana. Ma io veramente, Luca, di qualcosa tu. La Chiesa Romana, sai, come diceva Paolo giustamente, cioè sinistra era Gesù, cioè, teoricamente dovrebbero stare lì, sembra che la Chiesa Romana se ne sia dimenticata da parecchio tempo, lui sta, non so se è sinistra o destra, però lui sta dalla parte giusta sicuramente. Ecco, bravo. Dalla parte giusta. Beh, vedi la classe. Che avete detto la parola sinistra però, cioè, non lo so. Alla Leopolda sareste stati espulsi. No. Si può dire ancora la parola sinistra, nonostante quello che... Si può dire qualcosa di sinistra, nonostante quello che dica Crozza. Mentre invece, a proposito di sinistra, ritorna D'Alema, intervistona sul Sole 24 Ore a dire che Renzi spacca il paese, Renzi sbaglia, Renzi di qui, Renzi di su, Renzi di giù. Io no, allora, non lo so, poi intanto mi accusano di essere renziano, come mi accusano di essere grillino, come mi accusano di essere berlusconiano, a me non me ne frega niente, ma c'è un modo migliore per fare degli assist a uno come Renzi se parla un D'Alema? Ecco, Secondo te Paola saluta? No, ecco, per Luca Dini no. No, perché Paola è inutile che ridi, perché Renzi ancora per, non so, 2-3 anni potrà chiudere qualsiasi dibattito dicendo c'è il museo delle cere. Capisco che è brutta come rappresentazione, però un po' ragione ce l'ha, cioè voglio dire. No, non bisogna far parte del museo delle cere. Può sfruttare questa cosa, no? Che quelli là sono quelli là, o no? No, la rappresentazione è brutta, ma in realtà è peggiore. Ecco, pure. Quindi. Oh, stamattina il direttore, come al mondiale di pallavolo, si è svegliato questa cosa. Oltre la rete. Secondo me non gli è andata giù questa cosa che non gli ho chiesto come è vestito, ma potremmo subito rimediare. Ma questa è qualità, è quella qualità dell'uomo. Non no, è solo Paola, non è così un po'. Cioè che... non è l'ideale la tattica che si sta usando, se la tattica è quella della naturale contrapposizione politica all'interno di un partito, perché facendo così. Scatta ancora, diciamo così, risalta ancora di più, come tu dici giustamente, Alessandro, l'argomentazione che Renzi porta avanti. Sapete che c'è di nuovo? Io sto cambiando tutto. Questo è il vecchio, e attenzione a dare disvalore al vecchio, ma se il vecchio attacca a tutti i costi, e attenzione, parliamo di un uomo politico finissimo come D'Alema, quindi mi par bizzarro che ci sia un attacco di questo genere, peraltro da pagine straautorevoli come le vostre. Ma straautorevoli, super autorevoli, sì. iperautorevoli, le più autorevoli del mondo. Beh, posso dire una cosa, quando io devo leggere proprio tutto quello che ci sia nella giornata politica, si parte da sole 24 ore. Quello è il discorso. No, i violini li abbiamo. No, perché... I violini, e forse il file dei violini non c'è, ma possiamo fare il file dei violini forse è vecchio, però è interessante cosa che Renzi, no, vogliamo risentirlo, questo ce l'abbiamo perché è di ieri e quindi ce l'avevamo tenuto da ieri. Renzi, no, la questione del non trattare, perché è interessante, oggi Renzi pare sul Corriere della Sera è tornato su questa vicenda. Il sindacato non fa trattative con il governo, le leggi il governo non le scrive trattando coi sindacati. Se per anni si è pensato che per fare una legge bisognasse chiedere il permesso ai sindacati, beh, si è sbagliato. Forse questo, è arrivato il momento. Questo ha detto Renzi, insomma, che ognuno faccia il suo mestiere. E tra l'altro, oggi sul Corriere della Sera si racconta, questo era Renzi da Lilli Gruber 2 giorni fa, che l'idea proprio è questa, caro Luca e cara Paola, cioè di dire io non è che ce l'ho con la Camusso, non è che ce l'ho con la CGIL, ma semplicemente ognuno deve tornare a fare il proprio mestiere. Allora, è brutalmente così, oppure come dice D'Alema, che oggi al Sole 24 Ore dice ma non si fa, non si dicono queste cose, io non tratto con voi, si spacca il paese così. Luca, non so, vuoi iniziare tu, dimmi. Sì, è così, ognuno fa il suo mestiere. Peraltro io vorrei sapere esattamente qual è il mestiere che hanno fatto i sindacati negli ultimi 20 anni, visto che la situazione è quella che è. Quindi, io appunto vorrei sapere che cosa hanno fatto per difendere davvero non i diritti di chi ce li ha già, ma i diritti di chi non ce li ha, i posti di lavoro. Cioè, onestamente mi pare una battaglia anacronistica a questo punto. Anacronistica, guarda che oggi la Camusso tuona su Repubblica. Però nelle parole di D'Alema c'è comunque una linea importante, indicativa, no? Dice non si dice. Sì. E invece forse la forza oggi è quella di dirsi le cose in faccia. E di dirlo. E attenzione, dando ovviamente larghissimo e ampio spazio all'altro per poter rispondere, per poter contrastare, per poter venire incontro, per poter avanzare le proprie ragioni ancora in altra maniera, però si dice, cioè si deve dire, deve cadere il muro del frontalmente non diciamo nulla e poi ne parliamo a casa. Ecco, il concetto è non ne parliamo a casa. No? Io credo che in questo caso, insomma, forse la contrapposizione è quello che si è detto spesso, no? Che vuole Renzi, cioè trovarsi il nemico di turno, l'avversario di turno, no? Lo sappiamo, è un po', fa parte del suo linguaggio, del suo modo di interpretare le cose, no? Contro questo, contro quell'altro, contro i magistrati, contro i giornalisti, contro le troppe ferie, contro i parlamentari, l'Europarlamento e adesso anche la CGIL. Ma soprattutto, per favore, fare. Ecco, allora non fa niente contro chi Ma fare. Infatti è l'accusa che fa, l'accusa è proprio quella di D'Alema. Vedo troppi annunci fino a questo momento. Vedo troppi annunci. Diamo tempo, insomma, abbiamo sentito anni di annunci. È giusto non volere gli annunci, è giusto volere i fatti. Diamo tempo. Diamo tempo. Però in questo momento. Detto da uno che insomma da una decina d'anni fa solo prediche. Ecco, io sapevo che Luca ce l'aveva lì, no? Ce l'aveva lì, la dico o non la dico? La dico, è uno che fa prediche, è D'Alema. Prima però del traffico, vorrei un giudizio molto sintetico, stringato da Paola Saluzzi, da donna, sul video di Diego Armando Maradona, che in un video che ha già fatto il giro del mondo, visibilmente ubriaco, perché pare insomma l'hai visto il video? No, il giudizio è uno solo: menatelo. A lui. Cioè, se lo incontrate per strada, menatelo. Dai a Maradona. Quei ceffoni che alla fine gli fate dimagrire la faccia. Cioè, menatelo. Praticamente l'unico giudizio che si possa ha spintonato, schiaffeggiato la ex fidanzata. È uno schifo, punto. È uno schifo lui, è uno schifo quelli che alzano le mani, è uno schifo quello che dice: non me lo fa ripetere, Alessandro, ti prego, picchiate le mogli perché così stanno così. Sentilo qua, questo è l'audio. Diego, questo è il video, l'audio, potete immaginare, insomma, la ex fidanzata che gli urla: fermati. Menatelo, ho detto alla romana, menatelo, saper picchiatelo, per chi in Val d'Aosta non avesse capito. Menare vuol dire picchiare, picchiatelo, punto. Oh, punto. Ecco, la vendetta di Paola La Rossa. Eccolo qua, picchiate Maradona, andiamo al traffico. Sì. Basta annunci, vivi gli asso un bruciaculo. Basta annunci, vivi gli asso un bruciaculo. 24 mattino. Ciao Mila, guarda che ora sono le 5, già mezz'ora che sono in piedi, tre quarti d'ora. I nostri leader saranno tutti a letto a pensare cosa devono fare per mettercelo in quel posto. Comunque ragione Renzi, perché il mondo è cambiato, sì, sicuramente in peggio per noi che lavoriamo, ma sicuramente per loro in meglio. Io il mese scorso ho preso 1.000 euro per parlare della merda, invece loro si alzano la mattina tutti ben profumati e ci dicono quello che dobbiamo fare. Renzi, sei una M, forte con i deboli e deboli con i forti. Ci vorrebbe il tuo forcone lì con quella Saluzzi, chi è quella Saluzzi lì che parla? Milan, buongiorno, ma il presidente dovrà lasciare Ceccherini, perché lì sembra essere al cinema proprio, Ale, sei troppo bravo. Dai, quando vieni a Bologna? 1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà le sottomira, che le sarei tornati come le sottomate di Sarete. A Milan, io voglio sentire il traffico! Buongiorno signor Milan, beato lei, perché stamattina c'è Paola Saluzzi. Secondo me dobbiamo proporla come Presidentessa della Repubblica Italiana, per la prima volta una donna speciale come lei. Lei è d'accordo, signor Milan? Io voglio dire, poi sarà un po' più complicato fare i collegamenti nel mercoledì, però potete immaginare, ma io mi potrei mai opporre a una cosa del genere, la nostra generalessa, la porto in spalla, io e Luca Dini, due corazzieri notori, la escortiamo fino al Quirinale, o no? Ma che meraviglia! Vabbè, che meraviglia, sono passata dall'essere forconata all'essere Presidente della Repubblica, io ringrazio vivamente, io mi... In vestaglia. La portiamo in vestaglia di seta color panna all'ingresso del Quirinale. Ma... Perché il gatto è color panna, capito? Allora io sono l'elettrice di Vanity Fair e devo seguire un... Perché vuoi stare in pandan chic con Caterina. Chi ama la moda e ama lo chic. Certo. E legge Vanity. Sentite un po', ma datemi un consiglio. Devo andare a fare un giro a Bologna perché c'è una che... Sì, non lo so, la voce era, mi sembrava di una buona accoglienza, insomma, che mi avrebbe dato Bologna. Sì. È una bella città. È bellissima Bologna. Chiaro. Che devo dire, Paola, poi c'era uno che si lamentava, Saluzzi. Era uno che partiva dai Saluzzi. all'inizio era per forconarmi. Voleva il forcone. Così, i forconi e dall'altra parte il Presidente della Repubblica. Vedi come è bello avere a che fare con l'opinione pubblica che da una parte vuole una cosa e dall'altra vuole un'altra. Certo. Propendo per la seconda. Va bene, ma vogliamo dire due parole. Faccio questa domanda secca sulla questione della mafia. Oggi mi ha colpito molto sul giornale. Sul giornale fanno una serie di pagine e a un certo punto a pagina 6 c'è questa pagina dedicata a tutte le trattative che lo Stato ha fatto, per esempio, per liberare i nostri ostaggi, per liberare... Il tema è questo, ma è davvero così, lo so che la domanda è provocatoria, è davvero così uno scandalo pensare che qualcuno abbia, adesso non so se usare la parola trattato, ma abbia interloquito con la mafia, come avviene nelle situazioni di emergenza, no? C'è un ostaggio, che fa? Interloquisci con i criminali che tengono in mano un ostaggio? Gli americani non lo fanno, infatti li sgozzano. Gli italiani lo fanno e infatti paghiamo e si definisce se sia giusto, no? Non lo so. Però, caro Luca, cioè, il giornale la pone così, ma è davvero uno scandalo pensare che qualcuno delle istituzioni si ricorda il capitano Ultimo, che era un eroe, poi è finito disastrato perché non avrebbe perquisito il covo di Totò Riina e poi altri. Così è una roba che non si fa, punto a capo? Ma guarda, dire che non si fa è onestamente irrealistico, nel senso che, come dici tu giustamente, si fa in tanti casi, in tanti altri casi, per esempio appunto gli ostaggi in Medio Oriente, eccetera. Il tema secondo me in Italia è un pochino diverso, perché la mafia è stato ed è forse ancora, o forse spero di no, per tanto tempo un contropotere così forte che dargli una legittimità istituzionale significa abdicare sostanzialmente. Cioè, è una situazione molto diversa secondo me rispetto a quella degli ostaggi, del terrorismo straniero. Sì. È forse una situazione più simile a quella degli anni di piombo, in cui l'Italia doveva scegliere se trattare o se essere... Ma infatti il giornale ricorda anche quel periodo quando fu liberato il generale Dozier, probabilmente... Però ci fu anche Moro che venne ucciso. Ci fu Moro che venne ucciso, però ci fu, se non sbaglio, un caso abbastanza clamoroso di una trattativa invece con le Brigate Rosse, se non so se ricordo il caso Cirillo. Insomma, è un fatto che sono scelte molto, molto, molto difficili. Molto delicate. È vero che quando non si tratta è il momento in cui il nemico viene indebolito. Trattare è comunque legittimare. È già legittimare. Comunque, cara Paola, vedremo. Io rimango dell'idea che la cosa più scandalosa in tutta quella tenda stabilito ieri, avevamo grandissimo Francesco Viviano, che tra l'altro ha scritto uno splendido libro, Io l'ero mancato, facendo vedere come nella Palermo di quando lui è nato mancasse veramente un pelo per stare dall'altra parte, e purtroppo oggi è ancora così. Però che ha detto, se io fossi stato a quel tempo poliziotto, sì, carabiniere, uomo comunque delle istituzioni, avrei trattato col demonio per far finire quella scia di morte che era partita e che sembrava non insomma, avere. Cioè, le cose sono più sfumate più di quanto possono voler dire essere nette, no? La cosa che è difficile oggi da capire, perché in 56 giorni, al 57esimo, è saltato per aria con tutti gli uomini e la donna Paolo della Borsellino. Sua scorta. Paolo Borsellino non sia mai stato ascoltato, cioè uno questo Stato sì, pronto ad ascoltare le ragioni della mafia non è stato mai pronto ad ascoltare in 56 giorni un uomo che diceva devo dirvi cose su Giovanni Falcone, che era saltato per aria 56 giorni prima del 19 luglio, no? Ecco, questo rimane ancora. Questo forse è il grande vero mistero. Io mi devo fermare qui, certo, mi devo fermare qui, ma su Vanity Fair, ragazzi, oggi caro Luca fai un attentato alle coronarie, perché insomma, Jennifer Lopez così sbattuta in faccia alle 5:30, tu non ci pensi a queste cose, ti piacciono stagionate, ma è la tua copertina di Jennifer Lopez, una donna bellissima, smettila. C'è Jennifer Lopez con una lunga intervista. Mi devo fermare qui. Ringrazio tutti i messaggi, anche a chi mi scrive visioni di Liaca, Paola Rossa arruffata con vestaglia di seta. Io mi trasformo in gatto e folle fusa. E vabbè, per Paola Saluzzi. Ciao, alla prossima. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. E allora siamo qua, cari ascoltatori, sono le 7:18 minuti. Ricordatevi che è in corso la 78esima settimana decisiva per l'abolizione delle province e la riforma elettorale. E forse ci siamo, chi lo sa. Intanto vi ricordo che oggi parleremo di che cosa? Parleremo, mi ha molto colpito quello che ieri Dario Di Vico sul Corriere della Sera raccontava su Prato, la testimonianza, ricordate, di quell'imprenditrice cinese del rogo di qualche anno fa in cui morirono varie persone nei dormitori, e dice: anche voi italiani sapevate tutto, compresi gli amministratori del comune che mi chiedevano le tasse su quel posto dove sono morte le persone. Oggi avremo Dario Di Vico ai nostri microfoni, avremo anche il procuratore facente funzioni Angelo San Germano a Prato, avremo il sindaco di Prato, parleremo di questo, ma poi parleremo anche di un progetto di un imprenditore che si è convertito all'Islam e vuole fare la prima università islamica in Italia, a Lecce. Ne parleremo più avanti, ora andiamo a sfogliare i giornali. Questo mercoledì 29 ottobre, intanto i titoli: Il Sole 24 Ore apre sulla manovra, via libera dall'Unione Europea, nessuna grave violazione, dice l'Europa. Mentre sull'economia il giornale: la tassa sulla casa può saltare, questo è il titolo di prima pagina, e così anche Libero: tasse sulla casa, ecco come tagliarle. Poi chiaramente la vicenda Stato-mafia, la testimonianza di Napolitano e l'apertura per molti quotidiani. Il Corriere della Sera: nel 93 out della mafia allo Stato. Per Repubblica: non so di accordi, la mafia voleva ricattare lo Stato. E sono ovviamente le parole di Napolitano. Il Fatto Quotidiano: Napolitano finalmente parla e conferma il ricatto mafioso. Mentre La Stampa: Stato mafia, Napolitano risponde a ogni domanda, mai saputo di accordi. Napolitano chiude il caso, è addirittura il titolo del Secolo XIX. Mentre Il Messaggero: il Colle, mai saputo di patti. Avvenire invece: terra, casa, lavoro per tutti, il Papa, l'amore per i poveri al centro del Vangelo. Ma io partirei proprio dalla questione di Napolitano. Ci sono tantissime pagine oggi su questa udienza, questa testimonianza raccolta dalla Procura di Palermo in trasferta al Quirinale, di cui leggeremo tutto nei prossimi giorni, perché l'udienza verrà trascritta e messa a disposizione delle parti, forse anche in settimana. Napolitano risponde punto per punto, questo è il titolo del Sole 24 Ore. Lina Palmerini racconta questa giornata. A un certo punto Napolitano ha anche detto ai magistrati: pensate che abbia la memoria di Pico della Mirandola? Così, con l'ironia, con una battuta, Napolitano sostiene una prova faticosa da tutti i punti di vista, scrive il Sole 24 Ore. Ovviamente di cosa si è parlato? Si è parlato della testimonianza della lettera famosa dell'ex consigliere di Napolitano, Loris D'Ambrosio, che aveva parlato in una lettera scritta e consegnata a Napolitano dei timori di essere stato un inutile scriba di indicibili accordi. Ecco, su questi indicibili accordi ovviamente i magistrati hanno fatto domande a Napolitano, che tra l'altro fa notare i giornalisti non ha mai usato la parola trattativa, non ha mai usato la parola accordo, e soprattutto ha detto: non so nulla di questi indicibili accordi. Però fa notare, tutti i giornali fanno notare, che Napolitano, che avrebbe potuto fino a in qualsiasi momento rifiutarsi o interrompere la testimonianza o rifiutarsi di rispondere a qualche domanda, ha risposto invece a tutte le domande, anche quelle che la Corte aggiudicava inammissibili, racconta per esempio La Stampa, pagina 3, con Antonella Rampino, che è il Presidente della Repubblica. Anche su alcune domande che appunto il Presidente della Corte stava per giudicare inammissibili, Napolitano ha detto voglio comunque rispondere. Comunque tutte la trascrizione di questa testimonianza sarà, ripeto, disponibile nei prossimi giorni, racconta Attilio Bolzoni a pagina 4 di Repubblica. Per la verità l'articolo inizia in prima pagina, la domanda principale è questa di Attilio Bolzoni: quanto è servito far declinare le proprie generalità a un Presidente della Repubblica e farlo giurare di dire la verità, solo la verità e nient'altro che la verità? Cioè, quanto è stata utile la deposizione di Giorgio Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-mafia? L'udienza più solenne ha riservato una sorpresa che nessuno si aspettava, scrive Bolzoni. Il testimone eccellente ha risposto a tutte le domande alle quali doveva rispondere, e allargando perfino il confine tracciato dalla Corte di Assise di Palermo. Non ha mai pronunciato una sola volta la parola trattativa o la parola patto, ma ha ricordato ciò che fu decifrato al più alto livello politico la notte tra il 27 e 28 luglio del 93, cioè la notte delle bombe alle basiliche di Roma, dell'attentato in via Palestra a Milano, del lungo blackout a Palazzo Chigi, quando il presidente del Consiglio Ciampi ebbe paura di un golpe. In una frase di Napolitano c'è la chiave della sua deposizione, quella dell'out-out della mafia allo Stato, e cioè la domanda del PM: ha avuto la sensazione che in quel momento ci fu un ricatto della mafia allo Stato? Il presidente risponde sì. Anche il PM il PM che era presente, l'ha interrogato, vale a dire il PM Teresi, intervistato dal Fatto Quotidiano, dice: e anche da Repubblica la testimonianza è stata una testimonianza importante. Il test politico più netto rafforza la nostra accusa. Così Vittorio Teresi sul Fatto Quotidiano a pagina 3 si dice molto soddisfatto, così come tutti i PM palermitani che tornano a casa con un sorriso raggiante. Vabbè, è questa vicenda che vedremo come si dipanerà. Certo, nei prossimi giorni leggeremo i verbali. A proposito di mafia, c'è invece una notizia che è stata divulgata proprio ieri, cioè è stato assolto, o meglio archiviata la sua posizione dopo 15 anni di indagini. Era indagato per concorso in esterno dell'associazione mafiosa l'ex presidente del Senato Renato Schifani. Il caso è chiuso. L'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa archiviata dal GIP di Palermo, su proposta tra l'altro dei PM, uno dei quali è Nino Di Matteo, che fa parte anche dell'inchiesta sulla trattativa. 15 anni però sono serviti. E così Renato Schifani oggi fa un'intervista a Repubblica, intervistato da Carmelo Lo Papa: ho vissuto un film dell'orrore, una drammatica vicenda romanzesca aggravata dal fatto che venivo informato dell'indagine a mezzo stampa. Non ho mai assistito da avvocato civilista persone che fossero palesemente sottoposte a indagini. In ogni caso, come è stato dimostrato, non potevo sapere del loro status e il mio rapporto col cliente non ha mai travalicato il confine professionale. Insomma, da Presidente del Senato ho vissuto momenti di fortissimo dramma interiore. Ho cercato con tutte le forze di apparire distaccato, ugualmente rispettoso del ruolo di garante delle regole. Spero di esserci riuscito. Ho tenuto tutto dentro e oggi devo dire grazie alla mia famiglia, a tutti coloro che mi sono stati vicini. Insomma, dopo 15 anni di indagini, archiviata l'inchiesta su Schifani. Sul Corriere della Sera si ricorda con Felice Cavallaro che era stato accusato, quando era un giovane avvocato, di essere entrato in una società di brokeraggio assicurativa, la Sicula Brokers, di cui facevano parte alcuni soci che poi negli anni 90 sono stati incriminati per concorso e associazione mafiosa. E si è invece con la sentenza di archiviazione affermato che quella dell'ex presidente del Senato è solo la storia di un avvocato che ha difeso dei clienti e a volte senza sapere che fossero mafiosi. 15 anni di indagini. 15 anni di indagini. Che c'è da leggere ancora? Beh, vi racconto queste prima della pubblicità. Intanto a Cremona questa iniziativa: Claudio Del Frate lo racconta a pagina 23. Lavori socialmente utili per chi non può pagare la bolletta dei servizi idrici. È un'iniziativa a Cremona, dove le bollette non pagate si accumulano in alcuni casi, come succede spesso in varie famiglie. La chiamano morosità incolpevole, però, cioè chi non può pagare la bolletta perché non ce la fa. E a Cremona allora hanno provato a invertire il senso di questa deriva con un meccanismo sociale ed economico. A chi non è in grado di pagare la bolletta dell'acqua viene offerta una possibilità di riscatto. Il rubinetto dunque non viene chiuso, ma si chiede all'utente di rendersi utile compiendo lavori a vantaggio della comunità, come tinteggiare i muri di una scuola, dedicare qualche ora ad assistere agli anziani o tagliare l'erba in un parco pubblico. Racconta di questa iniziativa Claudio Del Frate sul Corriere della Sera a pagina 23. Non paghi la bolletta, non hai soldi e quindi ti riscatti così, facendo qualcosa di socialmente utile. Ma siamo al momento del premio Mani sul Volante. Le avete le mani sul volante? Se state guidando, appoggiate le tazzine bollenti del caffè, perché su Repubblica a pagina 11 si fa sapere che i deputati italiani rifiutano di lavorare in open space. La proposta è stata fatta per razionalizzare gli spazi, anche alla luce del fatto che verranno sciolti tutti i contratti con gli uffici esterni, dal questore della Camera. Uno dei tre questori, Stefano D'Ambruoso, ha proposto open space a Montecitorio per cercare di state più vicini. E no, i deputati si arrabbiano e dicono: ognuno di noi deve avere un ufficio privato personale. Un ufficio privato personale da parte dei deputati della Repubblica Italiana. Io sono in ogni luogo. Io sono dentro di voi. Sono dentro ognuno di voi che ascoltate. Guardatevi dentro e mi troverete lì. E io vi saluterò. Alessandro Milan, il conduttore così morbido che si taglia con un grissino. Vabbè, mi taglio con un grissino, questo l'abbiamo capito. Allora, è arrivato il primo sì alla legge di stabilità dall'Europa. Se seguite questa telenovela importante perché riguarda i nostri conti pubblici, Katainen, come racconta il Sole 24 Ore, a pagina 3, Katainen è il commissario europeo più falco che ci controlla. Annunciato che non intende respingere in toto i bilanci previsionali di Italia e Francia, dopo aver tenuto conto di tutte le informazioni e miglioramenti che ci sono stati comunicati negli ultimi giorni, non vedo casi di violazione particolarmente seria dei trattati, tale da indurci a esprimere un'opinione negativa in questa fase. Così il commissario agli affari economici Jyrki Katainen ha rinviato le opinioni sui bilanci previsionali previsti entro novembre. Debolezze o rischi verranno sottolineati a quel punto. Quindi Francia e Italia soprattutto evitano al momento una bocciatura. Certo, però Renzi se la deve vedere soprattutto con due fronti, il fronte all'interno del partito e il fronte CGL. All'interno del partito c'è un retroscena di Libero secondo il quale Renzi avrebbe preso di petto il capogruppo Speranza alla Camera dicendo: basta tirare la corda, io salgo al Quirinale e chiedo le elezioni anticipate. Questo secondo Libero. Secondo Libero e secondo vari giornali è questa la vera cosa che dà fastidio a Renzi, l'opposizione all'interno del partito. Per quel che riguarda la CGL, come racconta in un retroscena Maria Teresa Meli a pagina 9, siamo sul Corriere della Sera, Renzi dice: io non sono contro o non attacco il sindacato, il mio è solo un invito a che ciascuno faccia il proprio mestiere. Certo, però chissà come Renzi prenderà le due interviste che vi sto per leggere, una a Susanna Camusso su Repubblica e una a Massimo D'Alema sul Sole 24 Ore. Sono interviste di due persone che lo attaccano in maniera frontale. Sentite Susanna Camusso, pagina 9 di Repubblica, intervistata da Roberto Mania. Renzi è a Palazzo Chigi per volere dei poteri forti, lo ha ammesso anche Marchionne. Questo è il titolo. Susanna Camusso durante l'intervista si alza, racconta Mania, e va fumando a prendere un lancio d'agenzia in cui dice: eccolo qui Marchionne che disse il 2 ottobre scorso Renzi è lì per togliere i massi, i rottami dai binari. L'abbiamo messo là per quella ragione. Vede, questa dichiarazione mai smentita mi colpisce molto, che un cittadino svizzero, così si riferisce a Marchionne, la Camusso, che ha spostato le sedi legali e fiscali della Fiat all'estero, possa dire del Presidente del Consiglio l'abbiamo messo là, e che lo possa fare senza suscitare reazione. Questo spiega l'attenzione del governo nei confronti di grandi soggetti portatori di interessi particolari. Insomma, chiedere pubblica il governo dei poteri forti? Quelle parole di Marchionne, risponde Camusso, illustrano meglio di qualsiasi altro ragionamento perché questo governo non ha alcuna disponibilità a confrontarsi con chi, come i sindacati, rappresenta interessi generali non corporativi. Insomma, sintetizza Camusso, il governo copia le proposte delle grandi imprese di Confindustria. Questo è l'attacco. Poi ovviamente ribadisce: servirebbe una patrimoniale, ce l'ha anche la Germania, queste sono le risorse che vanno trovate. E poi sulla richiesta, lei è iscritta al PD ma rinnoverà la tessera del partito? Non rispondo a questa domanda, perché dietro essa c'è la stessa logica che ha portato a guardare la manifestazione di sabato come un'iniziativa all'interno del dibattito del PD. Poi non scioglie il dubbio su quando ci sarà lo sciopero generale, ma lo conferma così su Repubblica Susanna Camusso. Mentre Massimo D'Alema, ex premier, uno mai tenero con Renzi, oggi intervistato da Fabrizio Forché sul Sole 24 Ore, in prima pagina, poi continua a pagina 11, dice il titolo emblematico: così Renzi spacca il paese. Eccolo qui D'Alema: io spero che Renzi riesca a fare le riforme all'altezza delle promesse, ma per ora vedo soltanto molti annunci e anche uno stile di governo preoccupante. Nel modo in cui vengono affrontate le cose emerge una volontà di rottura col sindacato. Beh, ma anche lei si scontrò con la CGIL, chiede Forché. Ma io non ho mai detto non vi prendo in considerazione, oppure più mi criticate più guadagno consenso. Questo modo di fare spacca il paese. Vengono usate parole sprezzanti verso i magistrati, i funzionari pubblici. Sull'articolo 18 si conduce una polemica tutta ideologica. Il rischio, insomma, è quello di avere un paese incattivito. Mentre da questa crisi si esce solo se si torna a un minimo di concordia. Poi D'Alema parla della riforma del lavoro, una lunga intervista, la legge elettorale. La legge elettorale. Ah, dice è un pasticcio a un certo punto. Ah, la legge, quella della 78esima settimana decisiva per la riforma. Vabbè. E comunque parla anche di legge elettorale, di altre cose, della riforma del lavoro, dell'Europa. In questa intervista Massimo D'Alema sul Sole 24 Ore attacca però molto Renzi. Attacco a Renzi anche da Silvio Berlusconi, che forse è accusato di essere un po' troppo filo renziano. Ieri ha fatto un'intervista al Foglio, oggi torna a dire da Forza Italia ci sarà una manifestazione in piazza, il Casa Day, che non è il Casa Day, no, nel senso, perché anche Libero la mette così e vai col liscio, Casa Day, però è più Casa Day, cioè il giorno dedicato alla casa. Cioè Forza Italia torna, scrive Libero, in servizio e permanente effettivo da opposizione, con tanto di mobilitazione di piazza che potrebbe tenersi il 16 novembre o il 30 novembre per protestare contro la tassa sulla casa del governo Renzi. Da Matteo solo tasse, pure Silvio va in piazza, così è il titolo di Libero. Mentre Violante, dal punto di vista della politica, scioglie tutti i dubbi con una lettera inviata al Parlamento, alle signore e ai signori del Parlamento, pubblicata oggi dal Corriere della Sera, e si sfila dalla corsa alla Corte Costituzionale. Sapete che il Parlamento non riesce a eleggere i due membri della Corte Costituzionale. Violante rinuncia alla corsa per la Consulta. È una deriva questa che offende la dignità. Ora la politica torni autorevole. Se volete, siete appassionati a queste cose, pagina 11 intera del Corriere della Sera, con tanto di lettera integrale di Luciano Violante, il perché mi sfilo da questa gara per la Corte Costituzionale. Allora, per introdurre Il mio ospite, la mia spalla, il mio partner. In questo momento userò l'insulto che va per la maggiore in questa... Ah, cicciottello filippino! È il nostro Mauro Meazza. No, questa cosa poi la dovrò spiegare in rassegna stampa perché veramente supera i livelli del surreale. Comunque, Mauro Meazza mi ha capito. Buongiorno. Buongiorno. A dire la verità, sì, posso essere un po' appesantito, però insomma adesso... No. Comunque, no, ma tu da interista che ne pensi di questi insulti che riceve Toir? Filippino come se fosse un insulto, detto dal presidente della Sampdoria. Però filippino non è un insulto. No, appunto, ma è stato usato come se fosse un insulto. Insomma, diciamo che non è proprio asciutto, ecco, mettiamola così. Senti, intanto io però, a tua insaputa, ho lanciato un appello in rete perché voglio capire come si dice gufo in inglese. Ah, ecco. E qui c'è disaccordo tra di noi, perché io ho detto io ho detto civetta, ma hai ragione, però, forse all, non lo so. Ma non si capisce, guarda, non ne vengo a capo, non ci ho dormito la notte, ma perché? Perché domani perché parte Italy 24. Ah, No, ero molto interessato a capire come avremmo tradotto gufo anche per gli stranieri che vogliono capire qualcosa dell'Italia. A parte gli scherzi, Italia 24, appunto, il nostro quotidiano verticale in inglese, che racconta l'Italia dagli italiani per i non italiani, quindi non so, poi cicciottello filippino, adesso non chiedermi anche cicciottello filippino, sennò mi metti in crisi. Ti voglio dire un numero, però tu che parli di 78esime settimane e quant'altro, io vorrei lanciarti un conto alla rovescia e il numero è 149. Ecco, 149, perché tra 149 giorni bisogna aver completato la riforma fiscale. L'abbiamo segnalato ieri. L'abbiamo segnalato ieri sul Sole 24 Ore, meno 150, oggi meno 149. Quanti decreti sono stati già varati per l'attuazione? Zero. Siamo un po' indietro. Vabbè, recupereremo meno 149. Se per favore ti segni questo numero, poi teniamo memoria della cosa. Ottimo. Sul Sole 24 Ore di oggi, anzi con il Sole 24 Ore di oggi, l'inserto dedicato al nuovo regime dei minimi, che è un cambiamento parecchio importante annunciato in legge di stabilità. Con il disegno di legge di stabilità, parte dal 2015, toglie i regimi, diciamo, favorevoli, agevolati di ora, li sostituisce tre regimi con uno solo e completamente cambiato, quindi è importante saperlo, così come è importante sapere che ci sarà uno stress test anche delle assicurazioni, caro Alessandro. Se quello delle banche ti è sembrato così, ecco, poi vedremo come andiamo con le assicurazioni, ne parliamo nelle pagine di Norme, ho avuto un attimo di esitazione, ma tu sei in fingardo. Ma tu... Certo, era una domanda trabocchetto, era un saltafosso. comunque, ci sarà questo stress test, tutti i particolari in cronaca. Invece, per chiudere, nelle pagine di norme e tributi, il nuovo obbligo di annotazione degli utilizzatori sulle carte di circolazione scatta il 3 di novembre. Se siete assegnatari di un'automobile, non so, ad esempio le auto aziendali e quant'altro, attenzione, potreste essere destinatari di questo obbligo, ma tutto questo lo racconta magistralmente, devo dire, Maurizio Caprino, oggi sul Sole 24 Ore, nelle pagine di questa volta sui norme e tributi. E tutto ciò premesso, caro caro Alessandro, restiamo col dubbio su come si dice gufo, lo scopriremo solo vivendo. Solo vivendo, sì. Alessandro Mila, il giornalista più titolato del mondo! Insomma, speriamo sia benaugurante per noi e malaugurante per tutti gli altri per questa sera. Va bene, allora, intanto c'è questa vicenda dell'Ebola che fa sbottare veramente il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Sapete che ci sono 11 soldati americani nelle basi americane a Vicenza e altri 87 arriveranno oggi dalla Liberia e vengono tenuti in via precauzionale in quarantena. Nessuno ha manifestato nessun sintomo di Ebola, anzi è quasi impossibile che abbiano contratto Ebola, fanno sapere i comandanti americani. Però Luca Zaia dalle colonne di Repubblica, tuona, pagina 15, il Veneto non è un lazzaretto, americani andate a curarvi a casa vostra, prima vengono i veneti, poi gli americani, dice Zaia, intervistato da Paolo Berizzi. A maggior ragione se parliamo di salute, è vero, il termine quarantena l'hanno inventato i veneziani nel 500, ma sono allibito e incazzato, perché dobbiamo beccarceli noi questi militari a rischio? La caserma del DIN è nel centro di Vicenza e Vicenza è in Veneto e io ho il dovere di proteggere la mia comunità. Mi auguro che tutto il contingente americano sia sano, lo spero, prego per loro, ma se anche un solo militare si fosse ammalato, io sono costretto a dichiarare la massima allerta e anche, pensi lei, a curarlo. Assurdo! È incredibile! Sarò l'unico idiota che si pone il problema, ma dico, in nome della sovranità nazionale, ognuno cura i suoi cittadini a casa propria, o no? Dov'è il governo in questa vicenda? Dice Zaia. Non voglio buttarla in politica, ma siamo alla guida del semestre europeo. Perché accettiamo che un centinaio di militari a rischio Ebola vengano in quarantena da noi? Dipendesse da me, questi signori, con tutta l'amicizia per gli Stati Uniti, sarebbero già tornati a casa loro. Così Luca Zaia, dalle colonne di Repubblica. Mentre c'è una polemica per quel che riguarda la cronaca, che riguarda Dolce e Gabbana, l'ha lanciata in realtà Domenico Gabbana, facendo che cosa? Facendo un tweet. Stefano Gabbana, ovviamente, Domenico e Dolce, Stefano Gabbana, facendo un tweet. Sapete che sono stati assolti in appello dall'accusa di evasione fiscale e loro allora che cosa hanno detto? Beh, a questo punto siamo pronti a restituire l'Ambrogino d'oro. La polemica era nata dopo la condanna in primo grado, quando allora, al tempo della condanna in primo grado, l'assessore al commercio di Milano D'Alfonso aveva dichiarato che a Milano non dovevano essere concessi spazi simbolo della città agli evasori. Ricordate che Dolce e Gabbana reagirono anche chiudendo per 3 giorni i negozi in città per indignazione, con tanto di appelli pubblici. Ora dicono: siamo pronti a restituire l'Ambrogino d'oro come ci avevate richiesto all'epoca. Vabbè, polemica un po' di retroguardia, ma potreste essere appassionati. Molte persone invece saranno appassionate all'articolo che sto leggendo, perché riguarda sempre, la polemica è nata a Milano, anche dal sindaco Pisapia, ma riguarda le molte migliaia di persone che circolano in bicicletta nelle nostre città. Io lo dico con grande rispetto. Ieri sera stavo uscendo dalla macchina e a momenti mi tira sotto una bicicletta che andava in contromano. Salgo sul marciapiede e faccio attenzione perché sfrecciava una bicicletta sul marciapiede. Io vi voglio bene, amici ciclisti, non inquinate, fate un qualcosa di meritorio e di meritevole, però che diamine, le strade sono le strade, i sensi vietati sono sensi vietati. Comunque la polemica è nata dopo che a Milano è morta addirittura una donna 88enne che è caduta a terra, sbattuta la testa, travolta dalla bicicletta, ed eccolo qui il dibattitone su Repubblica, l'ultima battaglia della strada, contromano e imprudenti, anche i ciclisti sono un pericolo, anche il sindaco di Milano Pisapia dice serve più disciplina, la replica invece è che noi ciclisti, e questo è vero, siamo vittime delle auto spesso arroganti, grosse, grandi e assolutamente che sfrecciano e sfregia qualsiasi tipo di regola, e quindi dice ma come, siamo cornuti e mazziati, ci mettiamo sui marciapiedi a volte o andiamo in contromano per evitare di essere schiacciati dalle macchine. E allora per esempio c'è un'intervista a Giulietta Pagliaccio, presidente della Federazione Amici della Bicicletta, su Repubblica: ci accusano, ma è assurdo, la vera strage impunita è quella dei motori e invece accusano noi. Insomma, dibattitone pro o contro le biciclette, questo su Repubblica. Mentre io vorrei sapere che cosa è preso a Evelina Cristillin, dama della sinistra torinese, come la definisce Mario Giordano in prima pagina di Libero, per scrivere. Già si era messo di buon impegno il presidente della Sampdoria a definire filippino con un tono non proprio tenero, ecco, non proprio dolce, il presidente indonesiano, peraltro, dell'Inter Toir. Ma che è successo a Evelina Cristillin, che ha definito Toir cicciottello indonesiano su un intervento sull'Huffington Post. Eccolo qui, Libero la mette in prima pagina: il razzismo snob di Lady Juventus. Mario Giordano però è un tifosissimo granata del Torino, tenetene conto nel leggere questo articolo. Comunque, accecata dal tifo, la presidente Christine Lin, che è anche, pensate, presidente onoraria di un'associazione chiamata Prato, cioè Prevenzione dell'Anoressia di Torino, quindi presiede un'associazione che combatte il dramma dell'anoressia e dà del ciccione indonesiano a Tohir. Il titolo di Mario Giordano è la figura di cacca ad honorem di Lady Juventus, che definisce proprio così, insulta Tohir in quanto grasso, e scrive Giordano: lo devi insultare, basta con questo semplice silenzio complice del colesterolo, con l'omertà collusiva. Bisogna essere finalmente incisivi. Ciccione è il termine usato al primo stadio terapeutico, poi viene ciccione di merda, quindi ciccio bombo cannoniere con tre buchi del sedere, quindi ciccione di merda, i buchi del sedere te li faccio io, e poi finisce come succede a Napoli, i ragazzi di Napoli che infilano un compressore nel sedere del 14enne obeso. La stilosa donna, scrive Giordano, che ha vinto pure un premio Sport e Civiltà e un altro intitolato I valori dello sport, ha voluto onorare tali prestigiosi riconoscimenti con un altro epiteto di classe. Ha definito Tohir, oltre che piccoletto ciccione indonesiano, anche ciccio bello a mandorla. Ciccio bello, ma che è successo? Ma che, signora Christine Lin, ciccio bello a mandorla. E qui si vede, scrive Giordano, che è una donna perseverante, oltre che esperta di valori. Da notare infatti l'insistenza sulla caratteristica fisica e la provenienza geografica, con quel gustoso riferimento ai bambolotti e alla frutta secca che esprimono in pieno la civiltà dello sport. Vabbè, questo è, questi sono. Poi ha dato anche della famiglia Adams ai Moratti. Vabbè, che dobbiamo dire? Dobbiamo chiudere. E siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, l'articolo più inutile trovato sui giornali, eccolo qui, eccolo qui. Sulla Stampa, Davide Allegranti, mezza pagina su papà Renzi che è rispuntato su Facebook, si era cancellato da Facebook, è rispuntato con lo pseudonimo Orso Saggio, mezza pagina su Orso Saggio, papà Renzi. Ma chi se ne frega? 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vi ricordate, cari ascoltatori del Rogo di Prato, 1 dicembre 2013, 7 operai cinesi che muoiono in una di quelle fabbriche dormitorio che indignano tutti quando viene fuori la vicenda tragica come questa. Ricordate i dibattiti su noi, la comunità cinese, i rapporti culturali, economici, i discorsi sulla globalizzazione, sull'economia. Ricorderete le voci indignate di chi evidentemente fingeva di scoprire una realtà che in realtà è sotto gli occhi di tutti, anche probabilmente oggi. E allora mi ha molto colpito ieri l'articolo di Dario Di Vico sul Corriere della Sera, in cui si racconta un'udienza del processo in cui un'imputata, l'imprenditrice cinese titolare di quell'azienda, si chiama Lin Yulan, si assume le colpe di quella tragedia, ma dice anche qualcosa in più. In pratica accusa anche noi italiani, dice anche gli italiani sapevano i proprietari dell'immobile italiani che venivano a riscuotere l'affitto e vedevano l'azienda, sapevano i tecnici comunali del comune di Prato che nel 2013 erano andati in quell'azienda a fare i calcoli per calcolare la tassa sui rifiuti. Dunque abbiamo, se volete, titolato questa puntata anche gli italiani sapevano. Saluto intanto Dario Di Vico, buongiorno Di Vico e benvenuto. Saluto anche e ringrazio il procuratore facente funzione a Prato, Antonio San Germano. Dottor San Germano, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. Allora, San Germano, ovviamente non entreremo nel merito del processo, il processo va avanti e i processi si fanno in tribunale, ma le chiedo, se noi titoliamo anche gli italiani sapevano, è giusto? Cioè ci si può tirar fuori da questa vicenda noi italiani? Senza appunto entrare nel processo, la risposta netta è no, non ci si può tirar fuori. L'ipotesi accusatoria sviluppata dalla procura del sostituto Gesti, per l'appunto Lorenzo Gesti, prevedono proprio una correità a livello di consapevolezza e di condotta dei proprietari dell'immobile in cui veniva condotta l'attività economica, il pronto moda a Teresa, in termini di consapevolezza di quello che avveniva lì e degli abusi edilizi preordinati a consentire una uno stabile vissuto degli operai all'interno dell'azienda in condizioni di totale insicurezza lavorativa e in condizioni di violazione di legge. Da qui l'ipotesi accusatoria di cooperazione colposa in omicidio colposo per l'appunto e incendio. E quindi la domanda che lei mi fa trova una risposta assolutamente netta, ovviamente nel totale rispetto della presunzione di non colpevolezza, è un'ipotesi al vaglio del giudice che deve essere garantisticamente vagliata, però sì, gli italiani sapevano, ma al di là del processo in generale, sappiamo che la comunità di Prato, la comunità cinese a Prato è molto molto corposa, insomma, certo. Lei se le ricorda anche le voci indignate, insomma, di chi dice ma come? Come è possibile che tutto questo possa accadere sul territorio italiano? E che effetto le fanno alla luce di quello che è venuto fuori? Guardi, la vicenda del primo dicembre 2013 è una vicenda tragica che porta a ultimazione tragica per l'appunto un sistema che ho definito il sistema Prato, che è un intreccio di illegalità diffusa in cui si mischiano il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, abusi edilizi, false residenze e una inadeguatezza complessiva degli apparati statali repressivi e preventivi a rispondere a questa grave forma di devianza, naturalmente nel quadro di una comunità che nella maggior parte dei casi rispetta la legge, questo non c'è dubbio, però con una corposa violazione delle regole da parte di un nutrito gruppo di persone. Quindi il sistema Prato chiama in causa, diciamo, i ritardi dello Stato nello sviluppare una politica dell'immigrazione e una visione strategica e lungimirante dei problemi che non trovando soluzioni, o meglio trovando soluzioni tampone, poi deflagrano a volte in maniera tragica, anche se questo evento, mi scusi, ha prodotto delle risposte virtuose che voglio sottolineare, perché lo Stato complessivamente, anche grazie al richiamo del Presidente della Repubblica, non c'è dubbio, si è mosso dando risorse e mezzi, in particolare la Regione Toscana, Presidente Rossi, che ci consentono di ricalibrare in maniera efficiente la risposta. Però insomma Dario Di Vico ha sentito la descrizione del sistema Prato, che è un sistema, ovviamente poi bisogna capire quanto diffuso, ci sono persone, la maggior parte delle persone immagino che operino in rispetto totale delle regole, però è un sistema Prato che ci dice il dottor San Germano che viene fuori da questo processo di Vico. Bene, viene fuori una cosa in più, no? Una cosa in più che, come dire, diciamo viene fuori da un'aula importante ed è una cosa di cui si parlava, di cui si sapevano spezzoni di verità e adesso, come dire, per l'azione, si, diciamo, per ciò che esce dal processo sembra più acclarata, però attenzione, poi c'è il sistema cinese. Io non vorrei che noi, se mi posso permettere, oscillassimo di volta in volta, è colpa degli italiani, è colpa dei cinesi. Lì esiste un problema piuttosto serio che si è creato nel tempo, che non è stato affrontato con strumenti adeguati, e oggi scopriamo che attorno al sistema dell'illegalità cinese ci sono tutta una serie di connivenze. Mi colpisce per esempio non solo quella dei proprietari, ma quella dei servizi professionali, degli studi professionali di Prato, che a quanto si capisce lavorano molto a favore dell'illegalità. Non dimentichiamo poi che ci fu tutta un'altra vicenda a Prato che era anche di una capacità di condizionare istituzioni, corruzione di cinesi nei confronti di funzionari italiani. Quindi insomma il tessuto purtroppo è un tessuto, come ha detto il dottor San Germano, in cui si intrecciano le illegalità e comportamenti scorretti di entrambi. Ma non è proprio questo che emerge, Di Vico, anche dall'articolo che ieri leggevo appunto suo sul Corriere della Sera, l'idea che non si debba, come dire, oscillare su una colpa da una parte e dall'altra. C'è un sistema evidentemente che si regge perché ci sono due parti conniventi, ecco, poi bisogna capire quanto diffuse. Cioè non possiamo dire noi italiani, ma i cinesi fanno così. No, però bisogna dire però una cosa, io sono stato a Prato in quei giorni, ho assistito ad un consiglio comunale di Prato che è stato un passaggio molto importante, si alzò l'allora console, la signora Xinxia, console cinese, e disse delle parole molto importanti. Guardi, io ricordo benissimo, ci fu commozione in aula, il sindaco Cenni, che sicuramente non è, come dire, un'anima candida, si commosse anche lui di fronte all'intervento del console cinese, che disse delle cose molto importanti. Disse: oggi è una svolta, da oggi cominceremo a lavorare per l'emersione, e non è stato fatto niente, ecco. Quindi attenzione, per carità, io sono per mettere i commercialisti pretesi sotto accusa, giustamente, con gli strumenti della giustizia, ma non dimentico il fatto che i cinesi avevano promesso in una sede istituzionale importante un cambio di indirizzo, e non questo è stato cambio fatto. Di indirizzo non c'è e stato. E tra l'altro avremo dopo la pubblicità delle 8:30 anche il sindaco di Prato. Però, dottor San Germano, le voglio chiedere, voi intervenite come procura ovviamente laddove c'è un'ipotesi di reato o in questi casi una tragedia, ma come si può invece prevenire tutto questo? Perché abbiamo sentito anche Di Vico dire le parole di indignazione e le promesse erano state fatte all'epoca quando ci fu la tragedia e poi di concreto è stato fatto poco. È vero? È così? Che cosa si può fare? Guardi, allora, è evidente che la risposta repressiva non può essere ideologizzata secondo schemi preventivi, ma si deve fondare sull'emergenza della prova e sull'apprezzamento del caso concreto. E d'altra parte le emergenze effettivamente conclamano delle possibili complicità a livello naturalmente indiziario, di ipotesi investigativa, di professionisti nel favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, nell'apertura di ditte fantasma, nelle iscrizioni anagrafiche. Abbiamo nel Comune di Prato abbiamo contestato una pubblica funzionaria un'ipotesi di corruzione continuata in concorso con cittadini cinesi, mediatori italiani e cinesi per la compravendita, le vendite delle false residenze che sono poi collegate alla creazione di un imbasto indotto di illegalità sul territorio, per cui cittadini che assumono una residenza fittizia diventano poi titolari di ditte fantasma che operano con prestanome sul territorio in totale evasione fiscale e violazione. Cioè, per tutto questo ci vuole una complicità diffusa, voglio dire, di persone, italiani che si prestano a questo tipo certo, di... emerge e di volta in volta viene apprezzata con il corredo probatorio naturalmente che la conclama o la smentisce, quindi questo va detto. Come mi domandava lei come fare? Beh, innanzitutto sono stati dislocati sul territorio un grosso numero dalla regione toscana di ispettori dell'ASL che hanno aumentato i controlli portandoli a un numero estremamente importante, 10 al giorno sulle ditte, in particolare le ditte cinesi naturalmente, e questo è un'attività preventiva di grande impatto che può portare ad affiorare sia violazioni di tipo amministrativo sia violazioni di tipo penale, quindi lo Stato su questo si è mosso. In procura sono arrivati 15 ragazzi del servizio civile che hanno potenziato evidentemente l'attività del corpo amministrativo che ci aiuta nel lavorare quotidianamente, e sette ispettori dell'ASL aggregati in procura. Mancano i magistrati e c'è un imbuto che rischia di soffocare il tribunale. Stiamo lavorando per questo in sinergia con tutte le istituzioni e cercando di sviluppare una visione d'insieme del fenomeno che però non sacrifichi di volta in volta la prova del singolo caso concreto, ovviamente. Questo certo. Di Vico, cos'è che non è stato fatto e che era stato annunciato a quell'epoca? Soprattutto la prima cosa che le viene in mente, visto che poi avremo il sindaco, che è succeduto poi a Cenni. diciamo, da parte cinese non è stato dato seguito a degli impegni che erano stati presi. Io le ricordo in quei giorni, ripeto, in un clima straordinario, fu letta ad una sorta di funerali di commemorazione degli operai morti, fu letta una lettera di un gruppo di giovani imprenditori cinesi cappeggiati dal signor Zhang, e che anche lì chiedevano ai connazionali di cambiare il registro, di andare verso, come dire, la piena trasparenza eccessiva, però diciamo di emergere. Il problema è che quel modello di business, purtroppo, del distretto cinese è un modello di business che si fonda sull'illegalità e non riesce a emergere, perché forse c'è una contraddizione insanabile. Cioè funziona nella misura in cui c'è l'illegalità dei loro connazionali, perché ricordiamo sono cinesi che sfruttano in maniera schiavistica degli altri cinesi. Cioè è un gatto che si morde la coda, si regge proprio su questo presupposto, purtroppo, di illegalità, altrimenti franerebbe. Sì, perché questa è la grande sfida, che non si riesce a fare, far emergere l'imprenditoria cinese, che poi ha grandi capacità, per carità, non vanno dimenticate, farla emergere come business sano. Questa è se noi, diciamo in senso lato, scusate mi carico, riuscissimo in qualche maniera, anche con tappe, non da un giorno all'altro, a fare questo percorso, questa sarebbe la soluzione. Cioè quel business deve emergere, deve diventare industria sana via via, ripeto, e questa e poi tutto intorno si bonifica l'illegalità e diventa un'altra cosa. Purtroppo, ripeto, non ce la stiamo facendo. Io adesso poi il dito per accusare è troppo facile. Complessivamente dico che questo processo non sta marciando. Anche perché sono passati un anno e più da quella tragedia, ma insomma per il momento non si vedono risultati, ci dice Dario Di Vico. Ma tra poco lo chiederemo al sindaco di Prato dopo la pubblicità. Nel ringraziare il procuratore San Germano, le chiedo semplicemente se dovessero essere dimostrate le accuse, anche se questa la maggiore imputata ha già ammesso le proprie responsabilità, cosa accusa come pena? Quanto potrebbe prendere di pena? Perché sono sette morti, ricordiamo. Sì, sette la pena non la possiamo anticipare, la dirà Gesti, il dottor Gesti in udienza, la chiederà il dottor Gesti in udienza. Naturalmente l'impostazione accusatoria della procura è improntata al rigore, questo va detto, insomma, ecco. Il fenomeno è grave, se riteniamo che ci siano le prove e noi riteniamo di averle dedotte in udienza, è evidente che il dottor Gesti valuterà la pena che vi terrà congrua. Intanto la ringrazio, dottor San Germano, per essere stato con noi. 24 mattino. Stiamo raccontando alle 8:38 minuti quella che è stata la tragedia di Prato del dicembre 2013, sette morti cinesi in un'azienda dormitorio di fatto, e lo stiamo raccontando con Dario Di Vico del Corriere della Sera, e prima abbiamo avuto anche il procuratore facente funzione Antonio San Germano, che Di Vico ci ha raccontato proprio che esiste questo sistema Prato. Come leggevo ieri nell'articolo del Corriere, la testimonianza di questa imprenditrice, ci pagavo le tasse, cioè nel momento in cui pagava le tasse, e riferiva anche di tecnici comunali che hanno fatto i rilievi per le tasse sui rifiuti, a quel punto basta, non possiamo noi Stato, noi italiani, chiamarci fuori da questa vicenda, o no, Di Vico? No, non dobbiamo chiamarci fuori, ripeto, però bisogna trovare un percorso per andare avanti e trovare una soluzione, nel senso che non vorrei che poi nel microcosmo di Prato tutta questa vicenda segnasse nuove divisioni nella comunità, cioè, come dire, venissero esacerbati i conflitti che già esistono. Quindi per superare, come dire, un conflitto tra comunità, un conflitto etnico, si tratta di decidere una strada possibile, ed è quella appunto di bonificare un'attività industriale e cercare nei tempi giusti, per carità, i miracoli purtroppo non si fanno, nei tempi giusti una strategia che porti all'emersione e anche a una cosa importante, che i diritti dei lavoratori siano gli stessi per gli italiani e i cinesi. Noi ci stiamo dividendo in Italia sulla questione dell'articolo 18, sì, ma capisce che se andassimo in un laboratorio cinese, l'articolo 18, sì, le nostre querelle sull'articolo 18, sì, lì, lì veramente in alcuni casi i diritti anche minimi dei diritti dei lavoratori vengono calpestati. E allora capisce che io per esempio delle volte ho polemizzato con il sindacato toscano, perché non ho visto su questo terreno fare una battaglia. Allora, sì, mi faccia salutare il sindaco di Prato, Matteo Biffoni. Sindaco, buongiorno del Partito Democratico. Ieri, buongiorno a tutti voi. Ieri Di Vico raccontava che insomma le promesse fatte anche sull'onda del precedente sindaco Cenni, sull'onda di quella tragedia, per il momento non si vede. È vero che lei è in carica da 3 mesi, qualche poco più, ma non si vedono al momento concreti passi. Allora ci dica che cosa può fare un'amministrazione di fronte a quel sistema Prato che prima ci ha descritto il procuratore San Germano, cioè un sistema di collusioni, di favoreggiamento all'immigrazione clandestina, di persone che si operano e si adoperano per fare proliferare l'illegalità. Sindaco. Allora, mi faccio fare una brevissima premessa. Il sistema Prato, in un sistema come il nostro, dove c'è una presenza di migranti, una comunità cinese con i numeri che tutti voi sapete, è ovvio che comporta purtroppo l'attività illegale di alcuni italiani che sono complici, che hanno lavorato per favorire in maniera illegittima la presenza di cittadini cinesi, che hanno favorito per l'immigrazione clandestina, chi ci ha lucrato sopra affittando spazi assolutamente non tollerabili per lavorare dentro. Insomma, c'è stata una parte della comunità che ovviamente ci ha guadagnato anche in maniera illegittima e che la Procura della Repubblica giustamente persegue, e io mi auguro davvero che colpirà in maniera severa. Ma esiste un sistema Prato, come ce l'ha descritto San Germano? Sul sistema Prato, per carità, c'è qualcuno, c'è una parte della nostra comunità che su questo fenomeno ci ha lucrato e ci ha guadagnato anche in maniera illegittima. Poi c'è una parte che in realtà, cioè nel senso la grande maggioranza, cerca di stare nelle regole, che rispetta quelli che sono i limiti delle leggi e che non ha mai violato le norme, perché anche tra i commercialisti o piuttosto che tra i dipendenti coinvolti quell'indagine appunto sulle false residenze, beh, ne è stato colpito qualcuno, sì, non è che la comunità complessiva. Ah, è chiaro, lei dice la comunità non è così. Vi faccio sentire Maurizio da Milano come ascoltatore. Maurizio, buongiorno. Sì, pronto. Dica. Buongiorno. Io sono anni che mi occupo di produzione di calzature made in China. Sì. E questo problema del distretto di Prato è un problema che conosciamo da tempo e tutti conoscono, perché ovviamente è stata una delocalizzazione della produzione cinese direttamente in loco. Perché non si risolve il problema andando ad affrontare direttamente l'imprenditoria che compra da questo distretto? Perché loro sono i primi che sanno benissimo quali sono i vantaggi e come vengono questi vantaggi. A questo punto faccio l'esempio di alcune grosse aziende americane, senza fare nomi, faccio per esempio il nome, sì, di Disney, che, sì, prima di far uscire qualsiasi pezzo, qualsiasi paio di scarpe da un'azienda cinese, chiede di fare una audit, quindi vanno a verificare che non ci sia della... Cioè lei dice andiamo a colpire, tra virgolette, coloro che comprano da chi produce in queste condizioni. Esatto. Basterebbe semplicemente fare una audit, che è una cosa semplicissima, sì, dura mezza giornata, e si va a verificare dove vengono prodotte queste cose. È interessante, guardi Maurizio, le faccio rispondere a Dario Di Vico, è una ricetta giusta, no? Di Vico adesso è caduta la linea. Sindaco, pensa che sia una ricetta giusta, oppure io più da uomo della strada dico è più banale invece sguinzagliare ispettori, ASL, vigili del fuoco? Spariscono, si spostano. Spariscono, cioè, si spostano, ho capito, però sindaco Biffoni, è così? Cioè, sono 93 immobili, sì, tutti i giorni. Ci sono 4 controlli, arriveranno a 10 giornalieri, perché noi su questo tema qui saremo inflessibili, perché chi vuole rispettare, cioè chi decide di stare fuori dal recinto, sì, delle leggi, non è... Deve stare fuori. Però qui, insomma, Dario Di Vico, guardi, ci sta dicendo, mi scusi sindaco, ci ha detto che, certo, questo sistema, e Di Vico, non so se vuoi confermare, cioè il sindaco se vuol fare una domanda, si regge proprio sull'illegalità. Di Vico, allora, il sindaco dice invece noi stroncheremo questo fenomeno con controlli sempre più forti. Sì, no, i controlli sono necessari, sono importanti, anche perché onestamente uno Stato di diritto deve ribadire le sue ragioni, il suo rapporto con i cittadini, non ci può essere, come dire, una situazione anomala in cui lo Stato chiude gli occhi su un pezzo di legalità e di schiavismo nei confronti dei lavoratori immigrati. Ripeto, secondo me ci vuole il doppio passo, i controlli ma anche una proposta, come dire, economico-sociale, economico-produttiva, che in qualche maniera favorisca l'evoluzione di questa vicenda. Io ho il dubbio che quel business sia vincente da parte cinese proprio perché è fondato sullo sfruttamento più radicale dei lavoratori. Esatto, e quindi voglio dire, verrebbe a mancare laddove si stroncasse questo fenomeno. Però, sindaco, per concludere, lei quando legge che questa imprenditrice cinese accusa, e sono venuti anche tecnici comunali per fare certo. rilievi per pagarci le tasse, come reagisce lei? Meglio che non glielo dica, se no mi denunciano. Perché no, ce lo dica invece, da sindaco. Nel senso, noi abbiamo, quando venne fuori questa roba intollerabile, immediatamente dopo abbiamo, da quel giorno lì sono stati acquisiti tutti gli accessi che vengono fatti nelle aziende cinesi, perché non è che cinesi, sono in tutte le aziende, perché non è tollerabile il fatto che ci siano i loculi, i cosiddetti loculi, e che l'amministrazione non se ne renda conto addirittura vada a farci pagare la tariffa sopra, cioè nel senso qui siamo veramente, noi è una situazione che avevamo trovato da ereditato precedentemente, a cui abbiamo ovviamente, a cui è stata data immediata correzione, perché questo non è sostenibile. Vi faccio dire, guardi, brevissimamente, noi accanto a quel percorso di, come dire, riflessione molto forte, abbiamo anche detto che in realtà che chi ha intenzione di stare dentro le regole a Prato e con questa amministrazione troverà massima accoglienza. Ripeto, le regole ci sono, ci piacciono, non ci piacciono, poi si lavora, se il governo di cambiarle e modificarle, però finché ci sono noi bisogna stare lì dentro e farle rispettare. Quello, guardate, noi siamo disponibili a quello, però deve essere un patto che riguarda tutti, cinesi, collaboratori cinesi e anche tutto il mondo che gira intorno. Questo è chiaro, un patto, un accordo si fa tra più parti. Io ringrazio Dario Di Vico del Corriere della Sera, ringrazio il sindaco di Prato Matteo Biffoni per essere stati con noi. Dopo il traffico avremo un altro ospite, che i nostri microfoni ce la facciamo anche gli ascoltatori. 24 mattino. Allora, mi ha molto incuriosito un articolo che ho letto sul Corriere della Sera, su Libero, ne hanno parlato. L'ipotesi sta facendo i primi passi, è quello di fare un progetto per far nascere a Lecce la prima università islamica d'Italia. Si sta muovendo in questo senso Giampiero Khaled Paladini, presidente della Confederazione Imprese Mediterranee, un imprenditore che saluto. Buongiorno Paladini. Buongiorno a lei, salam aleikum. Non mi azzardo a rispondere perché insomma non è mia competenza. Ecco, esatto, ma insomma, piuttosto che fare gaffe non l'avrei fatto. Lei è un imprenditore italiano convertito all'Islam, credo un paio d'anni fa, ho letto, è così? Esattamente. E lei vuole fare quella che ha definito una sorta di, come c'è l'Università Cattolica a Milano, per dire così, e lei vorrebbe fare un'università islamica a Lecce. Cioè, come sarebbe impostata questa università? Esattamente come l'Università Cattolica di Milano, né più né meno. Quindi con degli esami di teologia cattolica, in questo caso la cattolica, e lì ci sarebbero esami. Certo, esattamente. Senza disdegnare naturalmente le altre facoltà, perché il nostro obiettivo è quello poi di, come posso dire, di farci riconoscere l'università dal ministero competente, per cui se questo dovesse accadere avvieremo anche altri corsi di laurea come giurisprudenza, economia, poi vedremo, questa è una cosa che si vedrà successivamente. Ma intanto in prima idea, cioè mi faccia capire, c'è cioè un'università nella quale non so, uno si può iscrivere, intanto si possono iscrivere di qualsiasi religione oppure bisogna essere... Assolutamente sì, di qualsiasi religione e di qualsiasi paese. E uno, non so, si può iscrivere, mettiamo che c'è il corso di filosofia, sì. Ecco. Che materie, cioè, da che punto di vista le insegnate queste materie? Dal punto di vista islamico? Lei può, intanto chiariamo una cosa, se puntiamo ad avere il riconoscimento del Ministero dell'Università, è chiaro che i programmi didattici dovranno essere quelli stabiliti dal Ministero, no? Su questo non c'è dubbio, però è chiaro che tra gli esami obbligatori e gli esami facoltativi, insomma, inseriremo elementi di filosofia medio orientale, araba, islamica, eccetera, eccetera. Su questo non c'è dubbio. Però se ci fosse, potrebbe essere diversamente. È chiaro. Se ci fosse, che ne so, un corso di economia, insegnate il capitalismo, Keynes. Assolutamente sì, come insegneremo anche la finanza islamica, l'economia dei paesi, eccetera. Quindi diciamo che vorremmo fare qualche cosa che sia a livello a 360 gradi, a livello internazionale. Perché a Lecce? Perché lei è di Lecce? Prima di tutto perché sono di Lecce e poi perché ritengo che Lecce in questo momento sia un po' al centro dell'attenzione di tutti, si vanta di essere la porta d'Oriente, per cui vediamo un po' se è vero. Se è vero, cominciando con un'università. Senta, a che punto è questo progetto? Lei sta raccogliendo capitali? Perché si è parlato di investitori del Qatar, qualcuno ovviamente ha subito parlato di timori, ma come? Si è detto di tutto e di più. Sì. Intanto il progetto è in fase assolutamente preliminare. Oggi dovremo ottenere la firma della proprietà della REST SRL di Milano, perché ormai ci siamo, abbiamo discusso approfonditamente la questione, dovremmo oggi firmare l'accordo preliminare per l'acquisto. Sì. Dopodiché ci vuole il finanziatore. È certo. Ci sono? Ma le dico di più, i finanziatori noi speriamo che non siano solo di un solo paese. Qatar, Emirati Arabi, eccetera, eccetera. Noi abbiamo la presunzione e l'obiettivo di creare un'università che sia di tutti dal punto di vista del mondo arabo. Per cui diciamo il nostro, come posso dire, riferimento non è solamente il Qatar, non è solamente gli Emirati Arabi, ma insomma tutti i paesi dell'area medio orientale di riferimento. Però mi perdoni, Paladini, ma perché c'è bisogno, secondo lei, di un'università islamica in Italia? Per lo stesso motivo per cui c'è bisogno in Iraq di un'università cattolica, perché non so se lo sa, ma la settimana scorsa la Caritas internazionale e il Vaticano hanno annunciato l'istituzione di un'università cattolica in Iraq, per lo stesso identico motivo. Quindi è inclusione delle minoranze religiose? Inclusione, assolutamente, ma più che inclusione, diciamo... confronto pieno tra due culture che tra l'altro si sono divise nel tempo, ma la cui origine sappiamo tutti che è simile, uguale, i rami sono uguali, per cui bisogna approfondire questo aspetto, perché questo contribuirà sicuramente alla comprensione reciproca e ad isolare eventuali deviazioni pericolose, così come stiamo vedendo in questo periodo. Certo, io ho letto uno dei libri più belli che abbia mai letto, è Chi ha ucciso Daniel Perry di Bernard Henri Lévy, non so se l'ha letto anche lei. Sì, Bernard Henri Lévy racconta in questo viaggio in Pakistan di come in alcune università islamiche o madrasse, scuole coraniche siano state anche il brodo di coltura per alcuni tipi di fondamentalismi religiosi. Lei come risponde a questo tipo di accusa? Ma io rispondo e proprio per questo l'università la facciamo in Italia e non la facciamo da un'altra parte, proprio per evitare, va bene, che la cultura sia assoggettata a obiettivi che non hanno nulla a che fare con la cultura. Lei immagina un'università a Lecce in Italia sottoposta a tutti i controlli possibili, immaginabili, perché noi siamo in perfetta collaborazione con le istituzioni preposte alla sicurezza, al controllo della sicurezza, dei flussi finanziari, eccetera, eccetera. Sarebbe praticamente impossibile che ciò possa succedere, e quindi noi riteniamo invece che questo sarebbe proprio un'occasione storica, almeno per l'Italia e credo anche per l'Europa, per avviare un confronto sereno, serio, senza nessun tipo di deviazioni di cui parlavamo prima. Tempi di realizzazione nei suoi sogni, immagino, se si trovano i soldi, se il Ministero dice di sì, o prevede anche delle opposizioni da parte di qualcuno? Opposizione ce ne saranno tante, ma anche perché la cattiva informazione, insomma, noi anche a Lecce stiamo trovando qualche difficoltà. Io ho cercato fino adesso di non parlare perché ho cercato prima di capire se la proprietà era disponibile a vendere e a che condizioni. Sì. Dopodiché chiaramente ci saremmo portati nelle varie istituzioni, comuni. E sogna di completarla entro quanto? 2 anni, 3 anni, un anno? Una cosa nei suoi sogni da prevedere, però voglio dire, io sarei già felice se entro un anno riuscissimo ad avviare i lavori di ristrutturazione dell'immobile. Mi dica l'ultima cosa: è un immobile enorme, sì, l'ente tabacchi, insomma, l'ex ente tabacchi. Esatto. Mi dica in conclusione, ma chi c'è dietro? Cioè, chi dà i soldi? Mi dici finanziatori? Cioè, chi sono? Governi? Privati? ma ci saranno principalmente privati. Privati. Privati e forse anche qualche fondo sovrano, non lo so, vedremo. Stiamo ragionando su tutte queste cose qua. Va bene. Però è ancora molto prematuro e chiaramente daremo conto di come procederà la cosa, sicuramente. Prima di tutto alle istituzioni, agli enti preposti alla sicurezza, come ho detto prima, i quali sono informati di tutto quello che noi stiamo facendo. Questo non c'è dubbio. Intanto la ringrazio, ovviamente. Buon viaggio, era so che è in treno, ma la linea ha tenuto benissimo. E la ringrazio, Giampiero Khaled Paladini, presidente della Confederazione Imprese Mediterranee, e che vuole costituire a Lecce la prima università islamica in Italia. Ci fermiamo con Lorenzo Nespoli, Alessandro Longoni, Anita Panizza in redazione, Elisabetta Fusconi, l'abbiamo cacciata in ferie un po', e Carmelo Lauricella in regia. A domani 6.30 puntuali con 24 Mattino. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 Mattino.